accounting frameworks do affect. Vi ho proposto la voce di Joe Stiglitz, premio Nobel per l'economia. L'ho incontrato ieri a un evento organizzato dall'Economist qui a New York, il Buttonwood Gathering, in cui si è discusso di economia. In questo caso Joe Stiglitz è pessimista, ritiene che l'economia non andrà bene nel prossimo anno, anzi nei prossimi anni. E come altri che hanno partecipato a questo incontro di ieri, vi cito soltanto alcuni nomi: Vikram Pandit, per esempio, che è il capo di Citigroup, oppure il governatore della Banca d'Inghilterra Marvin King, oppure il finanziere Wilbur Ross, uno dei più grossi finanzieri americani, hanno fatto commenti sull'economia che mi hanno colpito molto, perché in qualche modo sono stati dei commenti anch'essi estremi. Cioè l'economia riflette in questo momento delle posizioni estreme anche nelle sue posizioni istituzionali, Marvin King, governatore della Banca d'Inghilterra, e diventa quindi un contrappunto degli estremismi che vediamo in politica. And I have been told what is in the agreement between the Conservatives and the Liberal Democrats this morning. Ecco, qui avete sentito Marvin King nell'intervento. La cosa che mi ha colpito di più, ha fatto un lungo discorso, è che proprio lui, istituzione, insomma, la Banca d'Inghilterra, è passato all'attacco dell'accordo di Basilea 3. Non si è fatto abbastanza in termini di regole, non si è fatto abbastanza in termini di rapporti di capitale o impieghi. E la cosa che lui ha detto a un certo punto è: il cambiamento, dice, io credo, è inevitabile. La domanda è se riusciamo a pensare a un miglior risultato prima che la prossima generazione sia danneggiata da una prossima e più grande crisi. La crisi attuale ha già lasciato in eredità alle prossime generazioni il debito. Non possiamo lasciare anche l'eredità di un sistema bancario fragile.